Gentili colleghi all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. A un certo punto oggi Renzi al Senato sembrava il Papa, Papa Francesco. Ha cominciato a elencare in uno dei discorsi secondo me più brutti della storia del Parlamento, forse. Discorsi di insediamento tra i più orrendi, tra i più brutti, senza significato, senza profondità, senza cose concrete, tutte parole fatte, tutti discorsi triti e ritriti, chiacchiere, bla bla bla, eccetera eccetera. Non che i discorsi servano a qualcosa, per carità, però ci si aspettava maggiore concretezza. Tra l'altro ha fatto un elenco di cose da fare che servirebbero 100 miliardi, e dove li prendiamo 100 miliardi? Ma al di là di questo, si è messa a elencare le telefonate che ha fatto da quando è stato nominato, da quando ha giurato, eccetera eccetera. Peggio del Papa! Partiamo da che cosa? I Marò. Beh, certo, i Marò non potevano mancare come telefonata, Fosti eletto presidente dell'INAPO. Ieri, arrivato a Palazzo Chigi, ho scelto di fare alcune telefonate simboliche, ma non simboliche. Ho chiamato due nostri concittadini italiani che sono da troppo tempo bloccati a Nuova Delhi da una assoluta e allucinante vicenda per la quale garantisco. Sti poveri Marover hanno ricevuto non so quante telefonate da ministri degli esteri, presidenti del consiglio, non ne potranno più. Poi a un certo punto non si capisce perché David Renzi ha chiamato, lo dico con grandissimo rispetto, sì. Lo sai quella donna sfregiata in volto, quella storia terribile, no? Sì, quel caso di cronaca, certo. Sì, va bene, Lucia, la donna, ma scusa, ma che c'entra la donna sfregiata in volto che tu chiami qui? Ma che vuol dire? Cosa vuol dire? Presidente del Consiglio non si occupa di casi di cronaca, si occupa di cose più grandi, di cose più importanti, fa discorsi concreti, fa discorsi profondi. Vabbè, ho chiamato Lucia, ma dai, su, smettiamola. Ho chiamato Lucia, ma dai. Finti giovani, se il vecchio ricicla. Ho chiamato una ragazza della mia età, si chiama Lucia, è di Pesaro. In questi giorni sta combattendo per il processo perché è stata sfregiata in volto dal suo ex fidanzato, e credo che sia una delle persone a cui ho voluto proclami. Io non le sopporto queste cose qua, non è più forte di me, non le sopporto. Vabbè, ma questo mi pare marginale rispetto a tutto, ma il resto. Ma tutto marginale, che sono discorsi, è chiaro, ma che c'entra che chiami quella là sfregiata in volto? Ma perché devi chiamare quella sfregiata in volto? Ma si vede che non c'aveva nulla da fare, gli avanzava 5 ecco, minuti. Bravo. Ha detto bravo. Prendo le pagine bianche, chiamatemi quella, e l'ha chiamata, vabbè, questo è poco, ma a tutti fa piacere. Poi dice che ha chiamato un suo amico che ha perso il posto di lavoro. Ma scusami, vabbè. Quando tu hai avuto su quella terribile orchite, ad esempio. Non ti avrebbe fatto piacere ricevere la telefonata? Io non ho avuto nessuna nulla di quando nulla. Hai avuto quella terribile orchite? Beh, non ho avuto nulla, no, zero. No, quando hai avuto le emorroidi, ad esempio, sono stato fermo a casa per una settimana, no? Ma senti che ha sentito un amico che ha perso il posto di lavoro. Vabbè, ci avevi 100 punti per Fiorenza. Ho chiamato, so che non vi interessa, ma a me sì, un mio amico che ha perso il posto di lavoro. E credo che capire che cosa significa incrociare lo sguardo di un papà, per non dire un babbo, che ha perso il posto di lavoro, e rendersi conto che il tuo compito non è di quello di star qui a urlare, ma è cercare di dare delle risposte concrete. Caro un matteino, anche io sono un fiorentino e quando ragazzi poi io non ho mai sentito un discorso così banale, ve lo devo dire, sono rimasto impressionato. A un certo punto c'era la parola sogni, io abolirei la parola sogni dai discorsi, la parola sogni mi rattrista, mi fa diventare i sogni di Renzi, abbiamo bisogno. Senti, senti questa roba. Quel bravo sindaco che invece io... All'ampiezza di questa sfida abbiamo la necessità di recuperare il coraggio, il gusto e per qualche aspetto anche il piacere di provare a fare dei sogni più grandi rispetto a quelli che abbiamo svolto sino ad oggi. Questa immagine di te immacolata. Bisogna andare più nei mercati rionali, no, non ce la posso fare, vi prego, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Solo a discorsi se poi siadi a... Se in questi anni avessimo prestato ai mercati rionali lo stesso ascolto che abbiamo prestato ai mercati finanziari, ci saremmo accorti che la prima richiesta è la richiesta di semplicità, è la richiesta di pace, è la richiesta di chiarezza, è la richiesta di una tregua. Semplicità, pace, chiarezza, tregua. Non capisco che vuol dire pace. Semplicità, pace. Dai, su. Come Silvio dai godere. Dai. Eri ancora giovane che già partecipavi a trasmissioni. Vabbè, il top è Giuliano Ferrara, che ospite a Sky TG24 si scatena contro il discorso di Renzi. Raccomandati. È il discorso più brutto della storia parlamentare italiana, di questa Repubblica sicuramente, ma penso anche del ventennio fascista, dello Stato preunitario, monarchico, albertino, giolittiano. Un discorso così brutto non l'ho mai sentito in vita mia, mai. Solo banalità, solo cose da consiglio comunale di Velletri, di Campi Bisenzio. Ancora, ancora Ferrara. Sugli insegnanti, perché poi Renzi c'ha sempre questa cosa e gli dice dobbiamo dare dignità agli insegnanti, che non vuol dire nulla, zero, non vuol dire niente. Cosa vuol dire? Gli vuoi dare 500 euro in più al mese? Gli vuoi dare 1000 euro in più? Ne vuoi tagliare quelli? Cosa vuol dire concretamente dobbiamo dare più dignità agli insegnanti? Bravo Matteo! Lui ha detto che gli insegnanti sono buoni e su di loro si regge il futuro dell'Italia. Che i giovani sono bravi, che bisogna dare lavoro, che gli incidenti stradali procurano molto dolore, ma stiamo scherzando? Ma un presidente del Consiglio, dei ministri in Italia, anche se ha 39 anni, ha il dovere di esprimere, ma non è che devono fare citazioni, infiorettare, deve esprimere un livello culturale, politico, adeguato, istituzionale. Ci avevi 100 punti per Fiorenza in 100 giorni, pa-pa-para, pa-para, 100, 100. Quando siamo? Ok, il prezzo è giusto, invece la rotta la fortuna. Vai, vai, Matteo. Avevi detto o cambio Fiorenza o cambio mestiere. Ecco, io un'idea ce l'avrei. Ho già casino su diversi ministri, caro Parenzo. Ci sono delle frasi imbarazzanti per la sinistra, ovviamente, di Marianna Madia sull'aborto. Contraria all'aborto, lo disse al Foglio nel 2008 quando entrò in Parlamento. Marianna Madia, ripeto, contraria all'aborto, e che non c'è nulla di male, ovviamente. Beh, però è una posizione personale. Però no, è la posizione del PD, guarda. Stavo pensando che era la posizione del PD, guarda. Ero proprio concentrato sul fatto che. Quindi è chiaro che su questo, su alcuni temi etici, è evidente che tu non puoi. Vabbè, lascia perdere. Prima cosa, questa roba qua. Seconda cosa, l'enorme conflitto di interessi intorno alla signora Guidi. Questo semmai. Dai. Questo semmai, di questo bisogna parlare, certo. E poi ne vogliamo parlare invece della supercazzola di Civati? Beh, Pippo Civati, che ha tutta la mia stima, l'ho detto più volte. Signor Pippo Civati, però non è che ci può coglionare qui, Cioè, o vai fino in fondo, oppure non è che puoi rimanere lì sul ciglio e dire do una fiducia sfiduciata, non so cosa ha detto, una mega supercazzola. E poi non esco, esco, non esco, che faccio, che non faccio, mi dicono di uscire. E Civati, o esci o non esci. Gli elettori miei però sono tutti perché non la voti la fiducia. Per cui se faccio un gesto così è anche per segnalare che sono generoso. La cosa più triste sarebbe che se l'incoerente passassi per essere io, insomma, in tutto questo. Perché c'è il rischio, però il rischio ce lo pigliamo. la supercazzola di Civati e la prima figura di palta, se non addirittura di cacca, di questo governo, quando ieri dall'Annunziata, secondo me uno non ci deve andare prima del discorso di Renzi, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio parla di tassa sui bot. Ha detto una cosa sacrosanta, però. Ma lascia perdere, sacrosanta. Sacrosanta. Ma quale sacrosanta? Ma sacrosanta. Ma che c'entra? Le rendite finanziarie sono rendite. Una signora anziana che ha 100.000 euro di bot, a cui che gli rendono magari un tot di soldi, a cui si toglie 25, 30, 50 euro in più, non credo che abbia un problema di salute, diciamo, ecco, quindi vediamo da caso a caso. Beh, ma su tutti al Senato spicca un nostro amico, è il primo di tutti perché ha avuto il palcoscenico di Sanremo attraverso Maurizio Crozza. Attraverso Maurizio Crozza. Eccolo, la cappella di Michelangelo. Ce lo vedete? Aspetta. Ce lo vedete il senatore Antonio Razzi che fa la Cappella Sistina? Amico Michelangelo, te lo dico da amico, che te ne fotte di colorare tutta sta Cappella Sistina? Metti della carta da parati, facci una pizzeria che ti fai la grana, mettici un forno a legna che il camino c'è già, fumata bianca margherita con bufala, fumata nera diavola con bufala, la bufala c'è sempre. Ospite fisso, senatore Razzi. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Come andiamo? Io sono offeso da lei però, offeso. Sì, sono molto offeso. Senatore Razzi, scusi un attimo, lei ha fatto una maglietta. Che c'è scritto su questa maglietta? C'è la sua faccia innanzitutto, no? Poi sì. Che c'è scritto? E c'è scritto, te lo dico d'amico, fatti i cazzi tuoi. Beh, siamo al top. Questo, siccome è venuta la mia amica Lara Comi in ufficio e io ce l'avevo come, diciamo... Come campione, e lei l'ha voluto a tutti i costi, e no, me la deve pure firmare, ma dopo non ce l'ho più, io lo devo consegnare agli amici Parenzo e Cruciani, come altro faccio? E allora cioè, adesso ne ho ordinato 300, perché lo do a tutti i miei, diciamo, senatore e deputati, naturalmente a noi. Zanzara, ci mancherebbe altro. Io ho visto sta maglietta, ho pensato, il senatore Razzi fa una maglietta, la regala a Lara Comi, non ci dice niente, ma ce la mandi col PDF almeno, no? Ah, col PDF vuol dire, basta che mi dai la posta elettronica, te lo mando. Vabbè, comunque io sono offeso. Lei doveva chiamarci e dire vi diamo la regalo alla Zanzara questa maglietta qua straordinaria. Comunque ancora una volta Crozza le ha fatto un gran regalo, ma diciamola. Qualche soldi l'ha fatta questa? Ma non so, lì a Sanremo l'hanno visto parecchi, ma io non sono un artista, però mia moglie è un artista che sa pitturare, lei potrebbe fare la Cappella Sistina, lei c'ha, diciamo, c'è quella passione, io ha ragione, ci metterei una pizzeria, visto che il forno già c'è, per quando fa il Papa, allora lo possono adoperare per fare le pizze almeno a tutti quanti al Vaticano. Scusi un attimo Razzi, ma la Cappella Sistina dov'è tra l'altro? Lei lo sa? Ma guarda, ci sono stato due volte. Sì. E perché la prima volta ci ho portato un gruppo di abruzzesi dalla Svizzera, abruzzesi e non dalla Svizzera, alla perché Cappella tu lo sai che io lavoravo in Svizzera, certo. Però quando avevo tempo portavo a visitare Roma. Ma non è che ci ha portati i coreani là, no? Alla Cappella Sistina, no? Ci porterò anche i coreani quando faranno la pace, quando c'è una riunificazione, perché adesso già un primo incontro di quelli di 60 anni fa, che noi, i parenti che non si trovavano, già l'hanno fatto. Però scusi, Renzi Amanda, è sicuro che Renzi le dà una mano su questa storia della Corea? Ma io ci provo, perché ne va anche del suo, diciamo, suo Endurage che ha promesso questo e quell'altro. Io penso che lì ma lei il ministro degli esteri lo conosce? Ma no, mi deve solo dare una mano che andiamo a fare la partita a Pyongyang, ecco. Ah, deve aiutare a fare la partita a giugno, andiamo, e la zanzara deve venire. Però lì, scusi, ma io ho paura di andare a ammazzare a Parenzo, perché tanto Parenzo è di sinistra, così lì ci si trova suo agio. Ma ammazzano la gente lì a Pyongyang, razzi. Ma come ammazza la gente? Ma che io se i Marò stavano lì in Corea, già erano liberi. Beh, questo è interessante. Lei dice, se fossero stati catturati dai coreani, sarebbero già... Era libero, perché ci pensavo io. Beh, traffico, un attimo solo. Ma lei, se si fosse impegnato lei al posto della Bonino sui Marò, sarebbero già liberi? Ma no, io no, ma se ci stava Berlusconi, già sicura da 2 anni che stavano a casa. Beh, non ci come stava neanche un mese. E come faceva Berlusconi, scusi? Ma Berlusconi è un genio, pagava... è come tutti i geni, tira fuori dal cappello il coniglio. Il coniglio, in questo caso... Onorevole Gazzi, allora... Come Gazzi? Le zanzare... Eccoci qui, ma oggi l'ha visto il senatore Piano? Il suo amico senatore Piano lì al discorso di Renzi, Razzi? No, me Piano non c'era. Non c'era manco oggi, lui è parlamentare alla Camera. No, ma come alla Camera? È parlamentare al Senato, è senatore a vita, ma che stai a dire? Chi? Piano. Ah, Renzo Piano, ah, non c'era. No. Credevo Piano, quello del PD alla Camera. E chi è? No, dice il senatore a vita, Renzo Piano, no, non c'era. Non c'era manco oggi, Ma come no, non c'era? Non c'era. Non ci stava. Non ci sta. Se non ci sta, mica lo possiamo portare con le catene lì a fare il senatore a vita. Lei c'era, tanto poi va al ristorante, si mangia la grande lì, E loro, se il senatore a vita, viene quando gli pare, che ne so. Sì, ma che noi facciamo il nostro dovere. Ma quello si chiama Fiano, quello però della Camera, è Fiano, sì, non so, Piano, so, Fiano, Piano, che sì, diavolo, Razzi, manco i nomi pure lei, manco i nomi. Ma sì, ma questi c'ha tutti i nomi straballati lì, ma veramente... cioè, non è come Razzi, così, come lo dici così è. Dici Razzi è facile, Razzi è facile, Piano è più complicato, dice lei. Beh, Piano, insomma. Piano. Vabbè, veramente Piano è semplice, Piano. No, è semplicissimo. Lei dice si confonde con Fiano. Io oggi ho sentito il discorso di... appunto. Di Renzi, sì. Diciamo che le è sembrato? L'avrebbe fatto meglio lei, diciamo la verità. No, diciamo è un giovane molto intrapendente, molto sì. Che vuole fare, vuole cose, vuole diciamo sì. Emulare il maestro, che il suo maestro Berlusconi, che è Berlusconi. Però io ho detto, come dicevo tra amici, ne ci va a mangiare ancora di sale questo prima che arriva Berlusconi. Insomma, com'è che l'espressione, com'è, ne mangia ancora di sale? Ne deve mangiare ancora di sale, no, io con i miei, diciamo, paesani, diciamo, modo di dire. Si dice così. Questo ne mangia ancora di sale. Ma che hanno in comune Berlusconi e Renzi, secondo lei? Ma quella è la voglia di fare. La voglia di fare, La voglia di fare, però... È chiaro che non può ancora arrivare il maestro e genio che è Berlusconi. Non può arrivare lì, ma quindi non può. Ce ne sta uno solo. Purtroppo uno. Ce ne sta uno solo in Italia. E quando muore, e che succede? Quando e muore? Questi l'hanno tirato fuori dal Senato, ma è una cosa vergognosa. E vabbè, al Senato. Ma i cittadini gliela fanno pagare, perché se si va a votare, sì. I cittadini gli fanno pagare, perché quello è un genio e noi i geni lo dobbiamo portare avanti. Scusi. E non lo dobbiamo cacciare fuori. Scusi, ma meno male che sta ancora in Italia, meno male che non se n'è andato, meno male. Vabbè, ma quello perché se ne dovrebbe andare, scusi? Ma dico, come tanti magari imprenditori che sono scappati dall'Italia per tutta la burocrazia che c'è, per tutte le cose che c'è, e magari... Sì. Oh, se ne poteva pure andare lui, tanto dice questo mi hanno cacciato dal Senato, dico. Ma lei perché non si mette una cosa, un nastrino a lutto ogni volta che entra al Senato? Potrebbe essere una cosa, no, di solidarietà. Ma noi ci abbiamo, a suo tempo ci abbiamo provato quando non è caduto il governo Berlusconi, anzi è stato coraggioso. Stato a ritirarsi per forza, perché l'avranno anche imposto, perché lui non è che è stato sfiduciato alla Camera e al Senato. No. Ma diciamo che lui è l'unico che è stato eletto dai cittadini. L'ultimo, adesso, è stato l'ultimo. Abbiamo avuto i tre. Sì. Chi l'ha votato? Scusi un attimo, Berlusconi, secondo lei all'ONU, al posto di quell'altro, come si chiama quel coreano, amico suo? Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, là. farebbe... Io ho detto, ma anche la stessa cosa, quando si parla dei Marò, noi spendiamo miliardi per mandare i nostri militari a far fare, diciamo, pace in quella nazione dove ci serve. Basterebbe mandare Berlusconi, dice lei, in Corea. Perché non lo facciamo? Ma sicuro, se ci va Berlusconi non ci serve mai uno soldato, quello mette pace subito. Ma come fa a mettere pace subito in Corea? Perché è un genio. Vabbè, ma ho capito. E noi mandiamo tutti questi soldati che addirittura... Scusi, ma l'ONU dice che in Corea... Hanno pure lasciato la vita lì. Sì, e dove? E poi quando ci serve un favore, diciamo, un favore per modo di dire, a noi, perché abbiamo i due Marò da due anni lì in India, e non va niente nessuno. Vabbè. Ma come stiamo scherzando? Comunque l'ONU dice che ci sono delle torture in Corea del Nord, torture tremende. Vabbè, ma comunque, ma chissà. Come passa il tempo, caro Parenzo, come passa il tempo. Beh, per alcuni dirigenti del Partito Democratico che sono diventati dirigenti, militanti, deputati, che adesso sono diventati ministri, è bastato però pochissimo tempo per cambiare idea su Matteo Renzi. E c'è quello che io definisco un leccaculismo strisciante, in questo caso un saltare sul carro del vincitore, che a me francamente fa schifo. Sentiamo per esempio, no, non sentiamo, vi racconto quello che scriveva su Twitter, su Facebook, non mi ricordo neppure, l'attuale ministro degli esteri Federica Mogherini. Siamo solo nel novembre del 2012, cioè all'incirca un anno fa, un po' di più. Renzi ha bisogno di studiare un bel po' di politica estera, non arriva alla sufficienza, temo. Terza elementare. Novembre 2012, non negli anni 30. Ma ancora peggio, fa uno della segreteria del Partito Democratico che si occupa di comunicazione, l'amico Francesco Nicodemo. Che dice? La vera colpa di Veltroni, questo lo diceva nell'agosto del 2012, la vera colpa di Veltroni è aver candidato e nominato deputati gente come Marianna Madia, sconosciuta al popolo italiano, ma ben introdotta nei giri, nella cerchia, nelle combriccole che contano. Beh, amico mio, adesso sei nella segreteria del Partito Democratico e hai come ministro la signora Marianna Madia. Ma non è finita qui, aspetta. Siamo nel settembre del 2012 e l'amico Nicodemo della segreteria del Partito Democratico, ricordo. Impietosa questa cosa che fai, impietosa. Senti. Segreti. Nicodemo, segreteria del PD, sono l'attuale ministro Franceschini, che è passato con Renzi tempo fa. Sì. Mi suggerisce la regia, l'atto politico di Franceschini più rilevante è stato farsi crescere la barba quest'estate. Tutto buono. Beh, ragazzi, dai. Ma con quale faccia adesso? Con quale faccia adesso uno si presenta alla direzione del Partito Democratico dopo aver detto queste cose su uno che è diventato ministro con Renzi saltando sul carro? Questa è clamorosa, è settembre 2013, dunque pochi mesi fa. Sempre Nicodemo, segreteria del Partito Democratico, Franceschini et similia possono fare tutti gli endorsi che vogliono. Quando Matteo Renzi sarà segretario, questi non conteranno più una mazza. Beh, infatti, tant'è che sono diventati ministri. Ancora Nicodemo, siete sicuri che abbiamo davvero bisogno di Lorenzin ministro? Sembra settembre 2013. Beh, amici miei, siamo sicuri. È diventata ministro poi con te, caro Nicodemo. Senti quest'altra, novembre 2013, il niente e questa nuova maggioranza politica con Giovanardi, Casini e Alfano, monnezza. Not in my name, dai, Nicodemo, ritirati su, Francesco, amico mio, dopo aver detto queste cose, adesso stai al governo con Giovanardi, Alfano, Casini, Madia e Franceschini. A casa, TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi al Senato, servono scelte radicali, taglio a doppia cifra del cuneo fiscale, sblocco dei debiti statali, interventi sulla scuola e dice se falliamo è colpa mia, e scontro con i 5 Stelle, va sfiduciato, sostiene Grillo, il Presidente del Consiglio, vi vogliamo bene lo stesso, non è facile lavorare con un capo non democratico. Forza Italia ironizza, pochi approfondimenti, aspettiamo il programma di Renzi, confermano la posizione contraria anche Lega, Fratelli d'Italia, Sinistra Ecologia e Libertà. Romano Prodi sulla possibilità di una sua candidatura al Quirinale, per me la partita è finita, il mio tempo è passato, sono tutti giovani, al governo serve continuità. Passo avanti per la vicenda dei due Moroni, Novadelli non applicherà la legge antipirateria che prevede la pena di morte, il governo frutto del nostro impegno. Nuova bufera sul Monte dei Paschi, vittima di una truffa da 90 milioni di euro, al centro sempre la banda del 5%, accusata di farla cresta su alcune operazioni. Fin di vita, il tassista aggredito dopo la lite con un pedone, papà è morto, scrive il figlio, portato in questura il responsabile. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito. Oh, sentite cosa dice l'amico Gad Lerner sui Notav, che chiama rivoluzionari. Ieri sei stato in Val di Susa alla manifestazione dei Notav. Sì, perché sto cercando i rivoluzionari in Italia, che quelli che hanno un pensiero radicalmente alternativo. Ecco, che cosa ne hai dedotto da questa visita lì? Che fare di quella gente la caricatura del terrorismo è una ingiustizia assoluta. Dobbiamo uscire anche dal dogmatismo per cui questi sono soltanto degli estremisti pericolosi. Io consiglierei al signor Lerner, Gad Lerner, di fare una visitina in un ospedale milanese. Un ospedale milanese dove da qualche giorno è ricoverato, se non lo hanno dimesso, un signore che è una guardia giurata, non dirò il nome, per carità, per motivi di privacy, una guardia giurata qui del Sole 24 Ore. Guardia giurata del Sole 24 Ore, che una volta mi ha tra l'altro protetto dall'assalto di un fascino rosso qui davanti. Guardia giurata del Sole 24 Ore che qualche giorno fa, nel silenzio assoluto dei media, è stata aggredita, una guardia giurata aggredita da quei tizi che hanno scritto No Tab sulle facciate dei giornali e delle radio, aggredita da quattro, erano in quattro, vigliacchi maledetti, in quattro lo hanno aggredito e l'hanno mandato all'ospedale con le costole rotte. In quattro lo hanno aggredito, in quattro! Però Gad non si riferiva a questo. Non mi interessa, faccia una visita in ospedale a questo qua invece di andare in mezzo ai rivoluzionari. Vada a fare una visita alla guardia giurata del Sole 24 Ore, picchiata selvaggiamente. Lui intende una cosa giusta, cioè quelli che abitano nella valle e che però non fanno violenza. Non me ne frega niente. Vada in ospedale a trovare la guardia giurata qui del Sole 24 Ore, selvaggiamente picchiato da quattro, perché sono vigliacchi, lo attaccano in quattro perché cercava di evitare che le mura, le vetrate fossero imbrattate, capito? Ma nessuno difenderà questi, mai. Basta, stai zitto. Nessuno difende questi. Senatore Gazza, senatore Razzi? Sì, sono qui. Eccoci qua. Ho sentito tutti i tuoi discorsi di cambiamenti. Cambiamenti? Che cambiamenti? Il ministro Tot prima parlava male, adesso ci lecca e lecca lecca. Sì. Adesso eccetera, eccetera. Io, diciamo, nel paese dove ho vissuto io, dice Tummer Leitit, so ist Leben, no? Cioè? E mi dispiace, ma la vita è così, tutti vanno a fare questi per salvarsi la poltrona. Anche lei è passato poi, ma ecco quello che dico io. Anche lei è passato da Di Pietro a Berlusconi. Ma momento. Almeno devo ringraziare tutti i cittadini italiani residenti all'estero, specialmente in Europa. Perché? Che mi hanno scritto Razzi Antonio votato. Che ti hanno scritto? Che tutti ti hanno scritto? Il cartellino ce l'avevo io, il cartellino nel gergo sportivo ce l'avevo io. E io potevo decidere, questi mesi sono tutti raccomandati, tutti mesi ma, scusi, nominati. Ma nel 2008 pure tu e sei poi, stato nominato. Nominati, ma ce ne sono più di 350, mi sembra 389 preciso, mi sembra, che hanno cambiato di qua e di là e che sono stati nominati. Ma anche tu hai cambiato però, Antonio. Ma io ero votato con le preferenze. Ma che c'entra, è uguale, sempre cambiato. No. Ma io l'ho fatto anche con un atto di responsabilità verso il paese. Certo. Non l'ho fatto per... ma per, tu quanto per una question, ma per tu una quanto di poltrone. No, e poi avete visto, no, io non ho avuto niente. Ma come non hai avuto niente? Sei... niente? Ma stai al Senato, io... ma come non c'hai avuto poltrone? Stai al Senato, Antò. E ma dai. Sono al Senato perché mi hanno nominato e devo ringraziare gli abruzzesi che hanno votato il PDL allora e che mo devono votare, sperando che votano Forza Italia. Scusami un attimo, ma tu quanto vuoi bene a Berlusconi da 1 a 100? 110. 110, ma gli vuoi proprio bene bene come... Ma io li voglio bene come quando fosse uno di famiglia, un mio padre, mia mamma, avevo già detto l'altra volta, perché sì, quando si esprime una certa felicità quando lo vedi, perché anche lui quando mi vede mi esprime un bene, e questo per me vale di milioni di euro, non me ne frega niente. Cosa ti dice quando ti incontra Berlusconi? Che parole di affetto ti dice? Guarda, l'altra sera ti posso dire... posso dire una cosa? Dimmi una cosa. Eravamo alla riunione, sì, appena mi ha visto, grande Razzi, mi ha abbracciato. No, è grande presidente, io sono... Lei è grande, io non sono grande. Lei, io sono nulla in confronto a te, gli hai detto. Sono... io sono un piccolo pisciolino. Rispetto a te sono una formica, schiacciami. Non è meno, proprio niente. Però niente, sei niente. Mi fa capire che lui è uno che ama tutti i suoi figli, noi siamo tutti figli suoi. Allora io lo rispetto. Ma tu gli vuoi bene come vuoi bene a tua moglie, a Berlusconi? Sì, uguale. Possiamo considerare uguale. Uguale. Come voglio mia moglie, voglio bene anche a Berlusconi. Beh, adesso tua moglie si è ingelosita. Solo che mia moglie è donna e lui è uomo. Però... Vabbè, diciamo, ma tanto tu... C'è un bene fraterno. Un bene fraterno. Comunque, caro Antonio, qui il Senato Renzi lo fa fuori, Lo fa fuori. No, lui ha spiegato. Io sinceramente posso sì? Ti posso dire, dimmi, che è giusto che si fa una riforma. Una riforma, e che vengono diminuiti, perché ne siamo troppi. Troppi noi siete. Però facendo rimanere anche il Senato. Il Senato esiste da quando c'è Roma. Vabbè, la storia mi ricorda. Però c'era i senatori però dobbiamo, per esempio, 200, per esempio, perché non vi dimezzate lo stipendio come fanno i grillini? Ma i grillini, ma che sei matto, dici? Ma che a me alcuni senatori dei grillini, che dico? Che è tutto farsa, che tutto, che non è vero niente, non è vero niente, tutto è chiaro. Comunque se ti dimezzano lo stipendio, tu sei rovinato, diciamo la verità. Ma è giusto. Come fai a campare se con mezzo stipendio? Dai, diciamo la verità. Cerchiamo dopo di... Non ho più magari collaboratori, ce ne ho due. Lo elimino tutti e due e mi faccio tutto io. E fate i cazzi due. Tutti soldi così. La maglietta voglio! Borsa, grazie Antonio, le a presto! Le magliette me lo anzi, vengo in studio... Bravo, a regalarle, bravo. Così magari mi date anche un consiglio. Cosa ne pensate delle cose? Però adesso dobbiamo aspettare che Renzi fa queste riforme che ha promesso. Vabbè, quello, campa Galeano, alle 8, amico mio. Alle 8 sarà lì, sarà? A un altro discorso, in base a tutti quelli che gli hanno, fatto prima, sì. Cioè, un attimo solo. Hanno proposto, sì. E lui deve fare la replica. La replica, Antò. Dopodiché alle 22 abbiamo il voto di fiducia. Lo sappiamo. Però, se lui fa queste riforme quando riguarda la burocrazia, quando riguarda la legge elettorale, quando riguarda la giustizia. Che ha, almeno quello ha promesso, io penso che alla fine gli possiamo dare pure una medaglia a lui, se veramente riesce a fare questo. La coppa sempre come dico, di sale ne deve mangiare ancora prima che arriva Berlusconi. Al maestro. Rosa, rosa, rosa, se va bene rosa. Invece sta boccia, sta bruciando proprio addosso a me. Io certe volte, io faccio il tassista, devo spegnere la radio quando sento la zanzara, perché i clienti dice: ma che radio è? Radio Parolaccia. Succedono cose incredibili in Parlamento. Un deputato del Partito Democratico, Marco Miccoli, fa un appello al presidente del Consiglio Renzi. Uno si aspetta che faccia un appello, che ne so, Parenzo, sulla Corea, come nel caso di Razzi. Beh, sulla Corea proprio. Sull'Ucraina, ecco. Un appello, che ne so, per salvare I Marò, eccetera, eccetera, eccetera. Invece il signor Marco Miccoli, Partito Democratico, fa un appello per il campionato di calcio in Italia. Quello che sta succedendo è davvero preoccupante. Sembra di essere di fronte a una nuova calciopoli con errori e favoritismi a raffica. Da ultimo quelli verificatisi ieri nel derby di Torino. Per questo chiedo al nuovo presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, di verificare e garantire la trasparenza del massimo campionato italiano. Ma tu ti rendi conto o no, con tutte le cose che ci sono in Italia? Marco Miccoli, Miccoli, che non è il giocatore di calcio. Però scusami, non abbiamo detto una cosa importante secondo me. Cosa, cosa? C'è l'unica frase degna di nota del discorso noiosissimo del signor Renzi. Qual è? È quello che se sbaglia è solo colpa sua. Queste parole vanno registrate. Ammazza, oh, ammazza. Queste parole vanno registrate. Ammazza, che frase, oh. Queste vanno registrate. Pensa perché te, se, finirà come Berlusconi, che a un certo punto, non riuscendo a fare le cose, dirà: no, ma è colpa della burocrazia, il Senato non mi hanno fatto lavorare. Lui ha detto chiaramente: devi registrare e mandarlo in onda per sempre, da qui alla fine del suo mandato. Il tuo contributo è pari a zero, è una frase che non serve a nulla. Marco da Roma. Marco. Luciani, dimmi. Buonasera. Dimmi. Mi ha fatto attendere due giorni e... Vabbè, dai, forza, vai avanti. Vai avanti. Io non c'è nessuna parolaccia qui. Non si allora, preoccupi. Le parolacce vanno dette nel momento in cui si può. Vanno dette, non è che vanno dette così a ripetizione, chiaro? Chiaro, te la sto dicendo io la parolaccia, non me la sto dicendo assolutamente. Ma no, ma no, tu puoi dire quello che vuoi, sto parlando del sottoscritto. No, non te la dico, dico altro. Dimmi. Allora, che dire oggi? Ci sarebbe da dire tanto, a cominciare da questo governo di Fantozzi, di 16 Fantozzi più uno Fantozzino. Vabbè, perché adesso perché sono Fantozzi? Spiegami, perché sono Fantozzi? Sono Fantozzi perché praticamente sono persone inutili. Ma che vuol dire inutili? Non sono nemmeno iniziato e li definisci inutili, Marco, perché? Che faccio, insomma, e poi si vede la loro provenienza. Che poi fammi dire una cosa, Bruciani. Questo governo ha dimenticato 20 milioni di italiani. Li ha buttati nel cesso. E quali sarebbero, scusa? Bosco Padano. Quali sarebbero? Signor Renzi ha buttato nel cesso 20 milioni di meridionali. Ma che vuol dire? Perché non c'è. Le dico io le che cosa non c'è? Che cosa non c'è? Un ministro del sud non c'è? No, che cos'è? Dico no, io, a parte che non è vero che c'è Alfano. Il 5% del governo proviene dal centro-nord. Oh, il 23% proviene da Roma. Sì. Il 12% proviene da sud. Mazza, se prendiamo il signor Alfano, sì, che è un servo di Berlusconi Padano, sì, si riduce praticamente al 5%. Questo vabbè, è la qualsiasi sud. Ma Marco, ma lei ci ha messo pure del tempo a fare questo calcolo. Complimenti, Giovanni da Torino. Buonasera. Buonasera, caro Giovanni. Buonasera, Crotalenzo. Eccoci. Io chiamo perché rivoglio i soldi indietro. Perché? Adesso vi spiego, perché quando voi andate all'ipermercato e comprate una cosa che pensate sia buona, la portate a casa, invece non lo è, la riportate indietro e vi ridanno i soldi indietro. Ora, parlando di Razzi, sì, uno che quanto ci è costato fino adesso al popolo italiano, ai cittadini italiani, uno come Razzi, milioni di euro suppongo, no? Per uno stipendio come senatore e quant'altro. Quindi io, dato che non ha fatto un emerito cazzo fino adesso per il popolo, Razzi, voglio dire, anche perché parla peggio di mia nipote che ha 12 anni. Sì, ma non mi attacchi Razzi, perché è il mio idolo assoluto ed è meglio di Piano, almeno va al Senato, Piano non ci va. Al Senato. Sì, ma vai, come ci fosse un sacco di cemento di 85 kg seduto su una sedia. Vabbè, può darsi, ma intanto ci va. E i senatori a vita non ci vanno, anzi uno in particolare. Ci mancherebbe, ma quello che mi preoccupa non è tanto quelli soldi che ha preso, quel che prenderà, perché fra pochissimo andrà in pensione. Ma voglio dire, io rivoglio i soldi indietro. Faccia richiesta al Presidente del Senato, al Presidente della Repubblica. Renzo mi dà ragione, ma... Alberto da Padova. Sì, ciao Cruciani, sono Alberto. Mi senti? Sì, sì. Bene, allora io volevo dirti questo. Allora, dimmi. Normalmente ascolto le tue trasmissioni e posso dire che ti voglio anche bene. Però stasera, ma non c'è bisogno di volermi bene, anzi mi dà anche un senso di leggero fastidio. Però comunque ti dico francamente, dal mio profondo del cuore e senza schieramento politico, che questa sera sei improponibile. Perché e cosa? Perché cosa? Improponibile. Dimmi. Sì. Allora, qui in Veneto abbiamo appena aperto anche il Carnevale di Venezia. E non so se il tuo teatrino iniziale serve per animare la trasmissione. Io ti dico cosa ho provato oggi avanti, da cittadino, quando ho ascoltato il discorso di Renzi alla radio. Dimmi. Dunque, allora, per la prima volta dopo tanto tempo ho provato un senso un'emozione molto profonda. Se vuoi un po' un condensato di speranza degli italiani, beato di te, tristezza, beato te. Cioè, ti sei commosso, ti sei messo a piangere? Sì, sì, soprattutto per quanto riguarda l'argomento istruzione, non tanto per, sì, ti dico perché, fenomenale, non per il fatto delle scuole dipinte di nuovo, ma perché sono veramente convinto che dalla scuola, e qui sono d'accordo con te che non si inizia ovviamente con i 500 euro, dalla scuola nasce tutto, dalla scuola inizia tutto, siamo nati io, tu, mazza, che originalità, che cosa originale, che cosa fantastica, cioè io credo che l'abbiano detto tutti i presidenti del Consiglio in carriera, dal primo all'ultimo. Non c'è un politico nei talk show che non dica: beh, la scuola è importante, bisogna riformare la scuola. Poi in che modo si fa, gli insegnanti vengono premiati abbastanza, se c'è il merito, se ce ne sono troppi, come è organizzata la scuola, nessuno parla. Però tutti quanti dicono: bisogna rinnovare la scuola, bisogna partire dagli insegnanti. Vogliamo dargli questa originalità, dai, proviamo, ne abbiamo provati tanti. Ma qual è l'originalità? Non c'è nessuna originalità in questo. Come primo nel discorso, ma come prima, ma chissà quanti l'hanno fatto. Alberto, ciao. Ciao Alberto, caro. Finisco. Ma che finisci? Abbiamo detto abbastanza, ciao. Gli amici della zanzara di solito sono sempre molto seri. Mettiti sull'attenti, caro Parenzo, perché questa sera ti ho invitato uno dei nostri padroni. Oh, ma come padroni proprio? Uno dei nostri padroni. I tuoi soldi, il tuo stipendio dipendono anche da quest'uomo. Ma anche il tuo però. Beh sì, forse più il mio in realtà. Appunto. Per cui mettiti sull'attenti. Devi essere, non devi sbagliare una virgola. Allora io dico questo: da adesso fino alla fine dell'intervista, sì, io farò darò il mio contributo audio, sì, in piedi, stando soltanto su una gamba. Sì, beh, adesso questo che c'entra? E saltellando per dimostrare l'amore che ho rispetto a Confindustria. Adesso fai ridere. Ha ragione Minzolini, fai ridere. Detto da Minzolini, guarda, è soltanto una medaglia. Mettiamoci sull'attenti, è con noi il capo assoluto dei giovani di Confindustria, Jacopo Morelli, buonasera. Buonasera, leader Max. Leader Max, spero di libero che abbiate indossato una livrea adeguata all'occasione. Beh, guardi, caro Morelli, siamo anche formali. Caro Morelli, qui non solo abbiamo sincero fino in fondo. Dimmi. Adesso dimmi quello che mi hai detto su di lui prima. No, ma io non ho detto niente, non lo conosco. Come faccio a dire qualcosa su di lui? Scusa prima, perché cosa avrei detto? Dimmi. Jacopo, caro, scusami, sei Jacopo. Cosa Jacopo, detto? L'ho mai visto una volta sola, già lo chiami Jacopo. Pronto? Pronto? Jacopo, sì. Ti dico io cosa dice Cruciani. Te lo dico io, caro Jacopo. Mi senti, Morelli? Ecco, no, perché sento che va e viene la conversazione. Eccoci qua. Cosa ho detto io? Cosa avrei detto su Morelli? Parenzo, cosa avrei detto? No, dico, appena il dottor Morelli ha detto va e viene la conversazione, non l'hai insultato come quando va via a me la conversazione, però? Come mai? Come mai non hai detto dove cazzo sei? Sono in far condicio, Davide. Io su questo voglio sollevare un caso ora. Allora, prego. Però entriamo nel merito delle cose. Allora, sì, io voglio capire da Morelli una cosa. Quanto è ottimista su Renzi, da 0 a 100? Però non mi faccia il diplomatico, qui non lo sai che la zanzara non si fa diplomazia. Quanto è ottimista da 0 a 100 su Renzi, anche dopo questo discorso di oggi? Ma siccome io Renzi, tra l'altro, lo conosco anche essendo fiorentino, essendo pesante e così via, diciamo che sono un 70% ottimista. E non 70%. Lo 70%, sì. Perché voglio dire, come tutti alla fine, cioè, perché poi si può discutere, apprezzare più o meno lo stile, che quello bisognerà vedere, come diceva qualche nostro conterraneo di qualche secolo fa, no, alla prova dei fatti qui si farà sua nobilità. Vediamo un attimo quello che avviene. A parte che tutte le cose che ha promesso oggi ci vogliono non so quanti soldi, ho visto 100 miliardi e bisogna vedere dove ce si trovano tanti. Le coperture ce ne vogliono tanti. Ma senti, ma lei è tifoso della Fiorentina come Renzi, Morelli? Confesso di fronte a tutti i miei cittadini questo grande peccato, che non sono un tifoso. È della Juve. No, proprio, guarda, il calcio, il mio interesse è asintotico allo zero. Cioè confesso, zero, assoluto. Sì, zero. Mamma mia, per un fiorentino è terribile però. Cioè, un disastro. Cioè, se dovesse andare in politica non ha manco questa carta da giocarsi, lei, Morelli. È vero, proprio come si dice, impresentabile. Senta, ma meno male sto a bottega, come si dice. Scusi Morelli, ma mi dica la verità, è successo anche a lei, come alla Guidi, di avere ricevuto un'offerta per entrare in politica? Mi sia sincero su questo, sono sicuro che è successo. Sono assolutamente sincero, diciamo che non ho ricevuto nessuna offerta. Ma come? Un bel ragazzo come lei, col ciuffo. Ora fanno il casting, poi cosa vuole? Ora c'è anche uno stile un pochino diverso, no? Un pochino più pop, sono un pochino più classico. Non ho caratteristiche, sono fuori casting da questo punto. Cioè, non è nella lista beautiful, dice lei, non può entrare nella lista. Non ho quella allure. Il ciuffo ce l'ha, è brutto, non è? Non mi dica che Berlusconi non l'ha messa nel mirino qualche volta, sicuramente, dai, su. Chi mi dovrebbe aver messo? Berlusconi? Ai casting non ci sono stato. Senta, signor Morelli, lei nella sua vita cosa ha votato? Si può dire, facciamo una grande opera di trasparenza. Nella sua vita cosa quali partiti ha scelto? Ma è una cosa trasparente, qui tutti diciamo che abbiamo votato. Per esempio, alle ultime elezioni, un anno fa, cosa ha votato lei? Guardi, allora, un anno fa, innanzitutto, ovviamente, come si dice, mi spoglio dal mio ruolo in questo caso. Assolutamente. Diciamo così, istituzionale sì. E così via, quindi ciascuno di noi ha le nostre sensibilità, assolutamente. Quindi non c'entra niente con l'industria, non c'entra niente i giovani imprenditori. Così. Diciamo che in questo caso che il febbraio scorso ho votato in questo caso, ho dato in questo caso fiducia a quella che era la lista del senatore Monti, quindi è stato così. Alla Camera al Senato. E invece nella sua vita qualche volta Berlusconi l'ha votato, lei è del 75, dunque vota da un po' di tempo. Berlusconi l'avrà votato qualche volta, come tutti. Guardi, allora io lo dico, siccome voglio dire sono una persona diretta e le persone mi conoscono, io ho fatto a Firenze un liceo pubblico statale che si chiama Galileo Galileo, era il 1994, sì. E io credo su una classe, eravamo in terza liceo di 19 persone, di essere stato l'unico che all'epoca era un po' come una mosca bianca, dichiarava in questo caso di votare per Berlusconi. E poi ha continuato a votarlo altre volte, immagino, o no? E poi diciamo che ho votato anche altre volte, insomma. Ma lei Renzi, per esempio, lo voterebbe? Uno come Renzi? Ma guardi, allora, su Firenze come primo cittadino l'ho votato. L'ha votato, se ci fossero le elezioni tra un po' di tempo, adesso al di là bisogna vedere quello che fa, eccetera, eccetera, ma è il politico che gli ispira più fiducia in questo momento? Ma guardi, ora, quello lì, francamente, io ripeto, voglio vedere Matteo alla prova dei fatti. Vedere Cammello. Credo oggettivamente, ecco, io su una cosa mi pare che anche lì possa essere super chiaro. Io queste celebrazioni in generale che sento spesso dalla stampa, no? Ma di qualsiasi politico. Sì, questo è vero, questo è vero. Garibaldi, e quando sento questa è la nostra ultima speranza, è l'ultima spiaggia e così via, senza togliere di rispetto a nessuno. No, ma sono d'accordo con lei su questo. È una cosa per quando dicono l'ultima spiaggia è questa, altrimenti dopo c'è l'abisso. Ma chi te l'ha detto? Quando mai? Ma non è così. Volevo capire questo, però. Così. No, di Parenzo, di vai, vai. No, vai. Dico questo a Morelli. Quando ha sentito il signor Del Rio ieri parlare della ipotetica e probabile tassazione dei bot, cosa le è successo? Ha avuto un momento di il sangue un po'. Beh. No, francamente, prima di tutto perché voi andate sempre a fare le pulci, avrete visto che io da diverso tempo, proprio in questo caso come Presidente dei Giovani Imprenditori, dico una cosa molto semplice: nel nostro paese in generale si è tassato molto più la rendita, di quello che è il lavoro. Quindi, premesso che prima di tutto dovremmo tagliare fortissimamente la spesa pubblica, ci sono per cui lei non è contrario alla tassazione delle rendite finanziarie? a condizione che nel frattempo, in maniera, direbbero i giuristi, fino all'agmatica, quindi in maniera simultanea, sì, riducessero fortemente le tasse sul lavoro e sull'impresa, che veramente hanno un livello anche lì. Beh, ma lei è perfettamente renziano, Morelli, è quello che dice Renzi, cioè si possono guardi, io francamente, senza anche lì togliere rispetto al nostro Presidente del Consiglio, sono cose che, diciamo, dico da tempo, perlomeno da 3 anni, ecco. Per cui si possono anche tassare le rendite finanziarie, però nello stesso tempo bisogna fare 1, 2, 3. Eppure re parenziano è diventato Parenzo, sei diventato pure tu morelliano, che hai fatto? No, io ho detto questa cosa, tu prima mi hai detto che sono pazzo. Però Morelli, mi dica la verità. Lei che... direi che dicessi la stessa cosa al Presidente, cioè vorrei che usassi... Io sono contrario alla tassazione delle rendite finanziarie. No, ma dilla come l'hai detta a me. Io sono invece a favore della patrimoniale, che è un'altra cosa, la patrimoniale su grandi patrimoni. Morelli, scusi un attimo. Però detto così vuol dire abbastanza. Poco. Innanzitutto poi, perché intendiamoci anche qui, se uno dovesse fare una patrimoniale potrebbe avere un senso per abbattere fortemente lo stock di debito pubblico. Certo, okay? Chiaro. Ok, però farla in queste condizioni, cioè sempre senza prima aver ridotto fortemente, sì, la spesa pubblica, è come voler svuotare una vasca da bagno continuando a mantenere i rubinetti. No, ma lei dice dunque si può fare anche una patrimoniale però sempre riducendo il debito pubblico, giusto? Come? No, lei dice, io si potrebbe anche fare una patrimoniale, però basta che si riduce il debito pubblico. No, io dico questo, che la prima cosa da fare è tagliare in maniera forte, ridurre la spesa pubblica, ok? Quindi in ordine. Ho capito. Dopodiché si vede, sì, dove si arriva e si guarda, certamente vanno fatti degli interventi anche a importanti per credire effettivamente... Ma insomma, poi senta Morelli, però mi dica una cosa, perché è chiaro, anche lei trova che la signora Guidi sia in clamoroso conflitto di interessi? Mi dica sì o no, perché secondo me no. Sì. Guardi, allora io le dico questo, io Federica la conosco bene perché tra l'altro io sono stato... Lei mi ha preceduto in questo incarico e io sono stato suo vice presidente. Questo in maniera altrettanto diretta, una persona molto... Vabbè, bene, certo, e così via. Vabbè. Chiunque di noi vada a fare, chiunque di noi, sto parlando come imprenditore, vada a fare un mestiere del genere, sto dicendo come ministro e così via, è di base in un potenziale conflitto. Beh, ma in questo caso ci sono delle commesse dello Stato, statali. Momento. Poi, quando Federica, dopodiché, Guidi, prende, si rimette e così via. Poi, effettivamente, è una questione che riguarda molto anche, se vuole, la sensibilità personale, la legge e tutto quanto il resto. Quindi... Ormai è tutto degradato. Quanto siete stupidi. Vabbè, siete stupidi, insopportabili. Vabbè, ho capito, amici, che però non è che siamo solo stupidi, insopportabili. Adesso qui abbiamo uno dei nostri padroni, quello che ci dà i soldi. Ma che fine ha fatto Michiché? Michiché ormai è passato a Forza Italia, combatte ogni giorno contro Alfano, come al solito, dai, su. Ma cosa fa? Non se ne sente molto la mancanza. Non è nemmeno in Parlamento, l'amico Michiché. Perché devi trattare male Michiché, che mi sta simpaticissimo? No, a me mi sta simpatico. Oh. Finissimo. Dai, su. È con noi Jacopo Morelli, imprenditore, presidente nazionale giovani imprenditori di Confindustria, uno dei nostri padroni. Allora, caro Morelli, io voglio capire una cosa. Lei mi ha detto una cosa prima che è abbastanza incredibile. Cioè, dici, io non sono nemmeno contro la patrimoniale, purché poi si facciano altre cose insieme. Ha ragione. Le ho detto che prima bisogna, in questo caso, tagliare la spesa pubblica. Vabbè, d'accordo. No. No, è d'accordo perché le persone non sono mica tanto d'accordo. Quanto ha sentito... diciamo così, lo dico, è da 20 anni che sento che bisogna tagliare la spesa pubblica, Morelli. No, ma allora scusi, possiamo dire un'altra cosa, cosa? Proprio in maniera diretta. Ma le sembra possibile che in nessun'altra democrazia occidentale a parte nostra ci sia bisogno di nominare un commissario alla spending review quando noi abbiamo un ministero dell'economia e delle finanze e una ragioneria generale dello Stato che sono istituzionalmente pagati per fare questo? Lei ha ragione al 100%, ma mi dica la verità, lei licenzierebbe un po' di statali? Bisogna, come in Gran Bretagna hanno fatto una grande opera di licenziamento di statali, bisogna licenziarne un po' o no, secondo lei? Sicuramente anche lì bisogna fare una grande opera di razionalizzazione, con questo non cioè è... licenziamento, su, diminuzione, aspetti, diminuzione. Aspetti, ascolti, guardi, che noi abbiamo in alcune parti della pubblica amministrazione, per esempio, un livello di organico inferiore a quello che è necessario. Vabbè, ma in generale bisogna diminuirli o no, sti statali, sì? Bisogna diminuire sicuramente gli spesi, gli sprechi enormi. Vabbè, quello è quello. No, allora, se mi vuole sentire dire per forza si deve tenere la mannaia. No, la mannaia, licenziare, dico. Prendo anche la sciabola. No. Dipende in quali dipartimenti. Se si dice in quali dipartimenti se ne può parlare in maniera. Ma nel complesso, se uno c'ha tot dipendenti pubblici, uno dice no. Allora, vuole una parola. I forestali, tanto per andare lì, i forestali, sì. Lì, sicuramente lì ci sono ci sono sicuramente lì delle selve anche lì di sprechi e di clientele pubbliche vanno di. Senta, torniamo alla ciccia, la cosa sulla Guidi. Allora, però è chiaro che c'è un conflitto di interessi, lo sa anche lei, Morelli, adesso, perché lei è stato il vice della Guidi, eccetera. Però c'è un conflitto di interessi grosso come una casa, diciamo la verità. Bisogna dire le cose come stanno. L'ho detto anche che qualsiasi persona di noi che va come imprenditore a fare quel tipo di mestiere, già di base. Lei l'avrebbe fatto? Lei l'avrebbe fatto al posto? Casa, al posto se io li vado a fare anche il ministro per lo sviluppo economico, è chiaro che anch'io sono in un conflitto di interesse. Amica, c'hai i contratti con la pubblica amministrazione, diciamo, lei? Prendendo soldi sul marciapiede, nel senso che vendendo a un casino di clienti e non a, in questo caso, magari imprese statali. E poi ci sono delle situazioni che sono più o meno diciamo forti. In ogni caso, comunque, in Italia abbiamo una legge e ovviamente non verrà fatto niente se sia contro la legge, per forza. No, vabbè, d'accordo, però la sento, ma si può dire che è in conflitto di interessi per quello che riguarda gli appalti pubblici delle sue aziende, dell'azienda del padre, dell'azienda di famiglia, sì o no? Sì. Aspetti, che non l'ho mica sentita, mi diceva, scusa. No, sto dicendo, mi pare evidente che la signora Guidi è in conflitto di interessi per quello che riguarda l'azienda del padre, l'azienda di famiglia, no? Perché ci sono degli appalti pubblici, insomma, una cosa da risolvere questa cosa qua. Beh, quello, senta, e lo stabilirà, mi pare che per ci sia l'antitrust e deve stabilire tra l'altro queste cose. Che ne devo dire? No, mi devo mettere a fare il santo inquisitore? No, ma lei lo avrebbe accettato un incarico del genere se gli avessero proposto? Pronto? Non si sente più nulla, ragazzi, recuperiamo sta telefonata. Parenzo? Sì, sono Morelli. Che ne so io. Antonella da Brescia, dai. Io voglio dire un'ultima cosa, Morelli. Sì, adesso gli la diciamo. Antonella? Sì, Luciani, buonasera. Sì, si dica. Niente, io chiamavo perché non sono d'accordo sul commento che ha fatto quando ha aperto la trasmissione sul discorso di Renzi, che ok, lei dice l'ha trovato banale. È poco istituzionale. No, ma banale, l'ho trovato non da presidente del consiglio incaricato. No, ascolti, io le dico. Tutti gli uomini di governo che hanno preceduto questo signore che è arrivato adesso hanno fatto dei grandi discorsi. Cosa hanno prodotto? Diciamolo. Cosa hanno prodotto, Giuseppe? Cosa hanno prodotto? Lei è lì alla radio, ma tutti i giorni la gente fatica. Tutti i giorni il paese è veramente in ginocchio. E allora? Non se ne può più di tutti i discorsi. Basta, adesso abbiamo bisogno di fatti. E vabbè, adesso vedremo i fatti, infatti. Quindi basta, allora alla fine anche tutti i discorsi non hanno un significato. No, sto dicendo semplicemente che i discorsi, per carità, per quanto possano valere i discorsi in Parlamento, io mi aspettavo un discorso più concreto. Cioè bisognava avere più concretezza. Tot soldi mi servono per fare il taglio delle tasse, li prendo qui. E magari poi adesso fra qualche giorno ci spiegheranno, perché i soldi per il lavoro, i soldi per questo li prenderemo da qualche parte, eccetera. Beh, magari non è un discorso in Parlamento che può risolvere tutto. Siamo di nuovo con Jacopo Morelli. Voglio chiedere un'ultima cosa, Morelli, ma nella disputa ormai secolare, si può dire, tra il signor Elkan, la famiglia Agnelli, e il signor Della Valle, lei con chi sta? Adesso non mi faccia il democristiano, Morelli. No, senta, io non le faccio il democristiano, però posso dire delle cose. Innanzitutto mi sembra francamente che tra tutte e due questi signori, che dovrebbero avere un certo tipo di galateo e standing, abbiano anche un po' annoiato, no? Tirandosi gli stracci l'un con l'altro. Che le devo dire? Mi sembrano in questo caso due comari un po'. Ma insomma, non mi sembra un grande spettacolo, francamente, soprattutto, voglio dire, ciascuno può avere le proprie ragioni, ma magari non lanciandosi in questa maniera. Quello fa sotto del 20% rispetto ai principali player, vieni tu a fare uno stage da me. Non mi sembra un grandissimo esempio in questo caso. Cioè non danno una grande spettacolo, non è un grande spettacolo per il paese. Non mi pare. Però devo dire la verità, almeno se le danno di santa ragione in maniera aperta. Cioè, c'è anche un aspetto di trasparenza in questo. Deve essere tutto ridotto per forza alla, come si dice, alla società e alla civiltà dello spettacolo, come se dovessimo essere tutti una grande reina gladiatoria, diciamo pure di sì. Ma chi ha più responsabilità, secondo lei, Morelli? Uno che definisce imbecille Elkan, oppure Elkan che dice che i giovani devono, non vogliono trovare lavoro, in realtà ai giovani. Allora guardi, diciamo sulla frase di Elkan, lui dice, io non l'ho sentita francamente. Sì, lui poi ha spiegato, però insomma. Di essere stato frainteso, ovviamente decontestualizzata, perlomeno appare molto indelicata nei confronti di tutta una serie di persone che sono partite e che devono partire da zero, sì. Certamente non sono figli del privilegio e quindi capisco che possono avere molto l'amaro in bocca. Anche la Guidi potrebbe essere definita simbolo del privilegio, non è una grande scelta. Oggi ho sentito un deputato del Partito Democratico, molto vicino a Renzi tra l'altro, non un deputato, il direttore d'Europa, scusa, Menichini, che è certamente un grande tifoso di Renzi, il quale ha detto una cosa molto chiara e molto sincera, e devo dire gli faccio i complimenti, perché uno che è tifoso di Renzi e uno molto vicino a Renzi, eppure ha detto, la scelta della Guidi, che è considerata comunque una figlia di papà, ma anche nel senso buono del termine, è una scelta che non è in continuità con quello che Renzi ha sempre detto. Un po'. Però, allora guardi, non mi faccia fare in questo caso né l'antipatico né il difensore di Federica per forza, ma le dico questo, innanzitutto non c'è niente credo di male se uno ha merito a venire anche da, in questo caso, da una famiglia che ha delle possibilità. Potrei dire allora, per essere molto brutale, ci sono anche stati, non tra figli di imprenditori, ma magari tra figli di parlamentari e così via, o di una certa burocrazia, no? Sì, no, non c'è dubbio, sì. E anche quelli sono tipi, cosa che non sono tra gli imprenditori, invece mandarinati, cioè, almeno qua è tutto in trasparenza. Poi le persone bisogna ovviamente valutarle. Se uno è un imbecille, indipendentemente dal fatto. Questo è vero. Allora, se no si fa il processo all'interno. Ma io parlavo infatti della scelta di Renzi, qualità delle. Anche lì, scusi. Come Renzi, voglio dire, anche lì non è uno scemo, quando avrà chiamato la Guidi a fare questa cosa, avrà visto quelli che erano i potenziali o effettivi conflitti di interessi e avrà fatto la sua valutazione, si farà giudicare, perché alla fine se sono così, se questa cosa gli dà così fastidio, al di là di tutto, c'è una cosa molto chiara e molto istituzionale che si chiama Parlamento e senatori. Ma per lei è vicina a Berlusconi la Guidi, come dicono? Per quello che lei per quello che lei conosce della Guidi? Ma guardi, io come conosco Federica e per come mi ricordo, se vuole mi ci metto io, quando abbiamo questo tipo di responsabilità, come siamo, diciamo, tenuti e frequentiamo un po' tutti quelli che sono i responsabili. Però non ha mai nascosto una sua simpatia per il Cavaliere e dintorni. Scusi, ma abbia pazienza, anche se non l'avesse nascosto, cosa è diventato? No, ma figuriamoci, però è chiaro che poi, siccome la sceglie Renzi. Parenzo, ultima domanda, vai. No, voglio capire questo, diciamola tutta fino in fondo con la sapidità toscana. Dio ci scampi e liberi dai grillini al governo, questo anche per il futuro lo possiamo dire o no, caro Borelli? Cioè sarebbe un disastro per l'Italia? Sarebbe un disastro o no? No, ma senta, anche lì per non fare tutta di un'erba un fascio, ci sono dei parlamentari del Movimento 5 Stelle che io ho conosciuto e che ho trovato mediamente anche più preparati di tanti parlamentari che sono. Poi, cosa vuole? Se a un certo punto deve anche lì prevalere per questioni di comunicazioni, per questioni che devono rispondere a una certa parte. Ma Grillo lei come lo considera? Ma Grillo in azienda da lei lo vorrebbe o no? Come, scusi? Grillo in azienda da lei lo vorrebbe? Certo, per la comunicazione. Magari per fare comunicazione per il No, non per comunicazione, lo metterebbe a capo di un ramo della sua azienda, signor Grillo. Cioè, manderebbe in bancarotta l'Italia, Grillo, se governasse l'Italia, secondo lei? Guardi, allora, io le posso dire che non apprezzo i toni da tribuno. Però? Che penso che sia l'Italia non abbia bisogno di questo. Ovviamente, io ripeto, ci sono delle espressioni, ci sono a volte delle questioni sollevate anche dallo stesso Grillo che non sono del tutto peregrine, ma ripeto, se si deve prendere le persone, no? E penso che in sincerità voi possiate dire la stessa cosa. Io sono addirittura molto, io sono il più grillino di tutti qua dentro. Se mi vuol far dire che mi sembra abbastanza evidente che per stile personale, cultura e così via, Grillo mi è vicino, questo le posso dire. Ma quello si vede come dire a occhio. Grazie Morelli. Marco se n'è andato e non ritorna più, il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Marco Pannella ed Emma Bonino. Non è che sei incazzato come una bestia, però. Mentre invece questi hanno sentito il bisogno di fare fuori Emma. Guardate, non esagero. Noi da Non Violenti continueremo a cercare di dare al governo del nostro paese la forza con la non violenza di rispettare e realizzare la loro propria legalità. Ma di che sta succedeva parlando? Anche col nazismo, il Papa l'ha detto, attenti all'indifferenza, perché allora alla fine il nazismo, l'indifferenza, ma cosa c'entra la legalità con un cambio di ministro? Ma che ne so, campi di sterminio, le altre cose, ma alla fine divenivano indifferenti. Qui si diventa indifferente che Emma Bonino, se si presenta, c'ha 41 voti sì? Solo io ne ho meno di lui. 41 voti. È normale? Corrisponde a quei sentimenti della gente? Ma quale gente? Di tutta la gente. Ma dove? Sento che ci sei. Poi parla dell'Etna, impedire che vengano inceneriti dall'Etna. Senti, senti. State accorti, stiamo accorti, tutto è possibile. Non solo come cerchiamo di impedire con sì? la nostra lotta anche a livello europeo sì, e mondiale, certo. che ci siano milioni di inceneriti. Milioni di inceneriti. Come la scienza ribadisce di temere sì, certo. in Campania, non solo dal Vesuvio, ma dai campi flegrei, è il sesto pericolo per tutto il mondo. Di cosa parla? Ma non lo so. Può succedere qui. E noi volevamo solo da 30 anni, ma adesso anni? Che nelle scuole elementari sul Vesuvio sì. si insegna ai ragazzi come se succede qualcosa, bisogna operare, sì. andare via, e poi invece il sindaco di San Giorgio a Cremano che è lì San Giorgio a Cremano. Dice ma noi avevamo delle vie di deflusso da qui, ma adesso non le abbiamo più perché si è costruito. Mentre invece questo non governo, questa partitocrazia con le false opposizioni, ma che ne so. Non sono uguali, sono però soci. Punto e basta. Marco da Roma, buonasera, 800 24 0024. Buonasera. Dica. Buonasera, buonasera. Sempre grande l'imitatore di Razzi che mandate in diretta, e dove l'avete trovato? Ma non è l'imitatore, bravo. è lui. No, impossibile. Ma no, perché? È lui. Vabbè. Senta, ma perché lei ce l'ha tanto con Renzi? Ma io non ce l'ho con Renzi, lei insiste, io non ce l'ho con Renzi. Ah, non ce l'ha, vabbè. Ma non ce l'ho, io guardo le cose, osservo le cose, poi quando mi dirà dove trova i soldi per fare tutto quello che vuole fare, allora poi sono contento. Però questo, diciamo, rispetto ai premier precedenti del tutto a tutti, anzi di uno in particolare, diciamo, però almeno dice dove vuole tagliare le tasse. Ma dove dice? Ma chi non ha, chi è, qual è il premier degli ultimi vent'anni che non ha detto voglio tagliare le tasse sul lavoro? Chi è che non l'ha detto? Me ne dica uno Berlusconi, che non l'ha detto. Berlusconi. Ma no, anche Berlusconi non l'ha mai detto, non l'ha mai detto. Ma Berlusconi parlava di taglio delle tasse ogni secondo, su dai. Ha preso i voti con l'ICI, non è vero, sulle tasse, sul lavoro. Ma sulle l'ha sempre detto. Il discorso di Berlusconi dove vuole tagliare tasse. Tasse, Berlusconi. Ma Berlusconi l'ha sempre detto le tasse, lasciamo perdere dove. Mai. In generale, vabbè. Demagogicamente, va bene. Specificatamente per rilanciare l'economia, mai. Va bene. Questo è agli atti. Cioè, vabbè, allora? E allora, secondo me, è un cambio di passo, non solo un per cambio di passo, ma anche favorevole per l'Italia, insomma. Vedremo. Claudio da Roma, buonasera. Claudio. Claudio? Claudio? Dove si trova Claudio? Sì? Ma del lanciato. Sì, Claudio? Claudio? Sta parlando? Comodo, sta parlando con la moglie? Stavamo messo su la pasta. Con comodo, Che ci facciamo un bel ragù, se interessa. Ci facciamo un bel ragù alla faccia dei Razzi, eppure del Scillipotico. E che ha fatto Scillipotico? L'ha fatto bollire. Scillipotico, amico dei Razzi, sono accoppiata. Sono i gemelli del gol. Scusi un attimo Claudio, ma questo ragù chi l'ha fatto? Ha fatto mia moglie. Ha fatto sua moglie. L'ha fatto bollire. Come dice, scusi, quanto lo ha fatto bollire il ragù? Come? Quanto l'ha fatto bollire il ragù? Ma chiede con che carne l'ha fatto, come fa di come quanto l'ha fatto bollire? Sai, no, che perché il ragù va fatto bollire almeno due ore, altrimenti non è buono. Vabbè, devo chiedere a mia moglie, ma adesso gli italiani, tra mia moglie e Razzi, chi pensate che preferisco? Ma nessuno dei due, probabilmente. Beh, lei mia moglie non la conosce, quindi è un'offesa a mia moglie. No, lei ma adesso, Razzi, no, ma gli italiani non è che possono preferire sua moglie a Razzi. Rispetto a Razzi? Ma non credo, dai, su. È un'offesa a mia moglie questa. Ma no, ma sua moglie sarà una bravissima donna, eccetera, però no, cioè... Ma anche se ha sentito che le donne in Italia sono valutate la metà degli uomini, no? Sì. Ma siccome mia moglie è una casalinga, vale il doppio degli uomini. Vabbè, giusto? Allora... Allora, in conclusione volevo dire che sempre in conclusione tanti la riprendono perché lei dice parolacce in trasmissione e quello può far male ai bambini. Ma parlare dei Razzi, io penso che può rovinare psicologicamente la vita. È anche peggio di una parolaccia. Su questo sono potrei anche essere d'accordo, non per allora, Razzi, in generale. Senta una cosa, su Razzi ho saputo che lui è in Svizzera, a Lugano. Sì. E questa è una cosa che ho letta scritta, quindi non è mia. Allora? E dice che avevano messo da parte un po' di soldi i suoi compaesani, no? Lui si è preso tutto e cioè si è rifatti i denti. Ma chi l'ha io detto? Io dico Di Pietro, Di Pietro, che non è, giustamente non è un GIP e PM, allora? Quindi non ha potuto fare come giudice le indagini preliminari, ma si è potuto mettere un personaggio del genere in squadra. Una volta ci ha anche raccontato il modo in cui è stato reclutato da Di Pietro. A proposito di Razzi, sentite come l'amico Giulio Finotti l'ha pizzicato oggi al Senato. Sentite, esilarante. Lei voterà la fiducia? Quindi no, sul discorso... Come faccio a votare la fiducia se il primo appena incominciato ha detto questa è l'ultima fiducia che viene a chiedere, che il Senato deve sparire? Almeno quello si è fatto capire. Cioè, come a dire, vabbè, votate che è l'ultima volta che ci vediamo. Sì, è insomma, questo? Sì, non va bene. Cioè, almeno sicuramente io no. Renzi e la Corea. In generale lui è visto abbastanza bene perché sembra un giovane molto attivo. Ma questo molto... in Europa o anche in Corea? Ma in Corea questo, ripeto, non lo sapevano almeno fino a poco tempo fa, l'ultima che sono stato io al mese di luglio. Non lo conoscevano nessuno, sì, forse l'avranno sentito, sindaco di Firenze, ma non era nel suo proprio per famoso come oggi è, come premio. È famoso come Berlusconi adesso, secondo lei? Ma no, ne deve mangiare ancora di sale prima che arriva alla forza e alla capacità di Berlusconi. E poi, attenzione, potrebbe portare la pace in Corea, Razzi. Secondo lei, per farsi amare anche all'estero, anche per esempio dalla Corea, eccetera, che dovrebbe dire? A chi? Alla... No, cioè dovrebbe in Parlamento. Ma no, prima di tutto bisogna cercare di farla pace. Ma lui potrebbe essere in grado di far trovare questo accordo, secondo ma lei? Penso di sì, visto che vuole... se ne occupa suo campo. Visto che vuole far pace con tutti e magari... Renzi, chissà, magari si mette anche sul mondo asiatico. Io voglio solo la maglietta, l'unica cosa che voglio è la maglietta, e l'unica persona che in questo momento la possiede è l'europarlamentare di Forza Italia, Lara Comi. Io sono invidiosissimo di questa maglietta qua, l'unica persona che in questo momento possiede la maglietta di Razzi, che prima ci ha descritto, con scritto sotto fatteli cazzi tua, no? Te lo dico d'amico, fatti le cazzi tuoi. E questa la scritta con l'immagine di Razzi sulla maglietta. Ecco, io voglio questa maglietta e sono invidiosissimo di Lara Comi. Mi fai dire una cosa però. Dimmi, che devi dire? Che devi dire? Sei inutile quando dici queste cose. Che mi ha indignato. Che ho indignato? E così adesso ti arrabbi anche tu. Ti sei anche indignato, perché, dai. Perché ho visto un articolo su Libero, appunto, Libero Quotidiano, il Sì. Quotidiano online. Il Quotidiano online. C'è tutto un articolo dedicato al fatto che la rete, la rete, la famosa rete, sarebbe impazzita per il cosiddetto lato B della ministra Boschi. Oh, allora, voglio leggere una cosa. Allora, vedi che ho introdotto un argomento dimmi. È apparentemente frivolo. Allora? Ma, ma in verità è politico, in verità è politico. Perché sì, però vai, vai veloce, amico mio, dai. È una vergogna sessista proprio. Ma che cosa? Ma perché non si può commentare il lato B della Boschi? Non ho capito, qual è il problema? No, come si commentano i vestiti, sessista. Si commentano i vestiti, si commentano i capelli e si commenta anche il culo della Boschi. Qual è il problema? È una vergogna sessista. Ma non è vero, non è vero, assolutamente non è vero. Io ho il diritto di commentare il culo della Boschi, capito? Ho tutto il diritto di commentare come uno si veste, come ha il culo, come ha gli occhi, come ha la testa, uomo o donna che sia. Appunto, ma di un uomo, però vedi, ma di un uomo, dire, ad esempio, dire di Del Rio, nessuno si sognerebbe di dire, oh, guarda che belle natiche che ha. Ma che c'entra? A parte che non è vero, se un uomo ha le natiche che si vedono bene, uno può anche dire ha delle belle natiche. Non capisco perché non si possa commentare. Di Alfano, nessuno si vabbè, sognerebbe... ma dai, ma è normale che uno che si commenti il culo delle donne, perché... dai, non fare l'ipocrita, no, dai. Perché sulla Boschi si fanno queste ironie, si fanno queste ironie. Ma basse. Non c'è nessuna ironia, si guarda, si da guarda. Ma hai letto i commenti su Twitter o no? Ma sì, ho letto i commenti allora sul culo un po' grosso della Boschi. Durante il giuramento, allora qual è il problema? Qual è il problema? Non ho capito qual è il problema. Ormai è una fogna. Ma qual è il problema? Qual è il problema se uno fa dei commenti sul fatto che la Boschi al giuramento ha fatto vedere le forme del sedere che erano leggermente larghe, diciamo quello che è stato definito un po' il culone? Allora, mica è un'offesa. È un'offesa, la consiglio di offesa, io no. Allora, c'è un sito che si chiama Affari Italiani, che io consulto molto, un sito molto interessante, sì. di attualità, di politica, di società, sì. eccetera, eccetera, che ha scritto una cosa che poi è stato costretto a cancellare. Io diretto dal signor Perrino, no? Sì, dall'amico Perrino. E prendiamo la fichissima Maria Elena Boschi, questo c'era scritto. Sabato, poi è stato... Prendiamo la fichissima Maria Elena Boschi, 33enne toscana. Da nota più per il suo fascino a talk show che per il suo curriculum politico, a giudicare dall'insospettabile e inatteso voluminoso lato B e dalle cosce possenti mostrate durante il giuramento al Quirinale, strabordanti sotto l'attillatissimo e traditore calzone blu, gli italiani che finora l'hanno vista e apprezzata sempre seduta nei salotti televisivi hanno capito che il nuovo ministro non è in fondo diverso da tante donne italiane medie che mangiano troppa pasta e carboidrati, consolidando le calorie eccessive proprio nel fondoschiena ipertrofico, il mitico culone, che peraltro è un simbolo di prosperità e fortuna. Auguri e tante fiorentine, cara Boschi, meno calorie e più proteine. La semplificazione può farla partire dal suo carico energetico. Ora, questa roba qui, per questa roba qui, il sito Affari Italiani è stato aggredito da femministe incallite, da gente da gente inorridita, il giornalismo, le cose. È un pezzo fighissimo, una genialità, un'ironia che ci sta tutta sul sedere della Boschi. Qual è il problema? L'hanno tolto allora, secondo l'hanno te? Tolto e hanno sbagliato, secondo me, hanno sbagliato. Ah, ecco, scusami, hanno sbagliato, hanno sbagliato. Luigi d'Alessandria. Io voglio bene a Perrino. Hanno sbagliato, secondo me, io l'ho detto anche a Perrino. Luigi d'Alessandria. Eccomi. Dimmi. Niente, volevo solo dire al signor Gardner, come si chiama, è già il nome al programma. Lerner, sì, che parla di rivoluzionari, non di terroristi, eccetera. Ovviamente si riferiva, immagino, a quelli che non usano la violenza, come è evidente. Però. Però c'è una buona percentuale di quelle persone. Io vengo dalla Val di Susa. E allora che è successo? Io ho avuto anche da ridire con perché sono favorevole alla TAV. Non mi molesti moschitto, non mi molesti moschitto, non mi molesti moschitto. Ma noi ci siamo scordati di una cosa, caro David. Cioè? Beh, tu ti sei dimenticato di un piccolo particolare. Qui abbiamo del materiale d'archivio pazzesco. Il ministro, il neo ministro Marianna Madia. Sì. Marianna Madia, stai attento, che cantava, era credo il 2012, febbraio del 2012, sì. Cantava qui alla Zanzara, quanto ti ho amato di Benigni, ti giuro, quanto ti ho amato di Benigni. Mi sta piacendo molto come Bersani guida il partito da quando è il segretario, quindi tendenzialmente... Questa era la Madia in versione pro Bersani, credo. Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai, e non lo sai perché non te l'ho detto mai. anche se resto in silenzio, tu lo capisci da te. Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai, non l'ho mai detto e non te lo dirò mai. Nell'amore le parole non contano, conta la musica. Questa era Marianna Madia, neo ministro, in versione canterina qui alla Zanzara 2012. Quanto ti ho amato di Benigni. Devo dire che c'è un attacco in queste ore pazzesco nei confronti della Madia in Parlamento, raccomandata, non ha fatto niente nella vita, perché diventa ministro. Addirittura Salvini ha detto: come fa uno a fare ministro se poi c'ha la pancia? Questo devo dire, insomma, si pone un problema per qualche mese. Vabbè, pazienza, insomma, no. Un'altra che si è esibita qui alla Zanzara a cantare. No, ma la cosa di Salvini, che tu non hai fatto sentire, peraltro. No, no, vabbè. La sconcezza detta dal segretario della Lega. Perché questo. No, invece fai sentire le parole, perché è veramente una volarità inaudita. Ma che volgarità? No, ma scusa. Ha fatto, una provocazione, dai. No, ma quale provocazione? Intanto è come considerare la maternità una malattia, e già questa è una follia. Ma anche qualora uno fosse, che so io, magari con le stampelle o in sedia a rotelle, che non può fare il ministro? No, ma hai ragione. Perché ti deve assentare per fare delle visite? Hai ragione. È questa la Lega dell'Alberto da Giussano? E cosa dice il signor Varin di questo? Cosa dice il signor Pellegrin di cosa questo? Cosa dice il signor Pellegrin? Ribellatevi al vostro capo! Ribellatevi al vostro capo! Varin, Pellegrin, Radio Padania! Pinotti che canta Pierangelo Bertoli. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni fra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e scompiglia le donne fra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli, eppure il vento soffia ancora. Diciamo, speriamo faccia meglio il ministro della difesa, eh? Beh, no, però non cantava male, dai, su. Non lo so. Scusami un attimo, chiama Varin. Aspetta un attimo. Chiama Varin allora. Aspetta, fermo. Pronto? Onorevole Miccoli? Sì. Qui è la Zanzara. Come, sì, buonasera. Come sta, carissimo? La devo rimproverare oggi, la devo rimproverare. Perché? Caro onorevole Miccoli, ma come? Ma lei si rivolge al Presidente del Consiglio che ha tanti problemi per la questione della Roma, degli arbitri, della Juventus e del Torino. Onorevole Miccoli, no, su. Veramente io non mi sono rivolto a Roma, Juventus. Io ho parlato di anticipare magari un problema che ci potremmo trovare di fronte tra breve, visto quello che sta accadendo nel campionato. E che, scusi, quale problema ci sembra dovere? Beh, il problema è che vengono segnalate non da Marco Miccoli, diciamo, ma da autorevoli giornali, da autorevoli esponenti di quel mondo, episodi che sono frutto di errori, favoritismi e che presumono un'eventuale ulteriore polemica che può danneggiare. No, però scusi, onorevole Miccoli, io capisco che lei è molto tifoso della Roma, giusto? Sì. No, io capisco questo. E va bene anche fare il tifo, protestare per gli errori che favoriscono, secondo lei, la Juventus. Ma che c'entra portare questa questione eminentemente calcistica, pallonara, all'attenzione? No, non è una questione, mi permetta, non è una questione perché? Calcistica, pallonara, perché l'industria del calcio ha un business di 2,4 miliardi di euro l'anno, va bene? E che ha 10.000 dipendenti solo la sezione che riguarda il calcio. Ma Renzi che cosa potrebbe fare, scusi, in questa cosa qua? Renzi, secondo me, no, Renzi, il governo, il ministero, diciamo, competente, dovrebbe garantire in una fase difficile come questa per il paese, per l'immagine del nostro paese, la regalità di quello che è uno sport popolare amato da tanti italiani. No, ma lei si è rivolto a Renzi direttamente, ha detto chiedo al nuovo Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, di lanciare un allarme. Mi scusi, ma che può fare Renzi? Quello è il governo, Miccoli. Io che c'entra con come può fare quando un'industria di quel tipo, quando uno sport amato da tanti ragazzini che si identificano nei calciatori, a cui noi insegniamo in questo momento che è meglio essere furbi anziché allenarsi, fare sport, guardare Vabbè. Al profitto, al merito. Miccoli, però lei sta dicendo a Renzi, no. La Juventus ruba, intervenga. No, guardi, se legge il comunicato, la Juventus non viene per niente nominata. Ma è sottinteso, no? Dice, sottinteso. No, io dico che ci sono delle regolarità che vengono denunciate. Guardi, se lei guarda il sito di Panorama oggi, compra Panorama, e addirittura Panorama che non è Marco Miccoli, è un giornale autorevole, pubblica una classifica che diciamo è relativa al campionato così come si sarebbe svolto senza gli errori arbitrali. Però scusi, allora, Miccoli, io capisco che lei fa il tifoso, va benissimo, ma che c'entra Renzi? Non è che c'entra Renzi, c'entra la politica. Ma lei sì, ma come la politica? Ma meno male che la politica non si intromette invece in cose calcistiche. No, ma guardi, voi sottovalutate, poi dopo quando scoppiano gli scandali come Calciopoli vi lamentate che nessuno ha controllato. Vabbè, secondo lei la Juventus ruba, lo dica chiaramente. La Juventus ruba. Io penso che ci sono delle regolarità che vengono denunciate. A favore della Juventus, secondo lei? A favore della Juventus. In questo caso a favore della Juventus, mi dicono. Ma io quello che voglio dire è che se ci sta questa polemica è bene intervenire e garantire con trasparenza la regolarità del Ma non è che lo può fare il governo, ma faccia un appello alla Federcalcio, ma che c'entra Renzi? Ma no, non è così, perché poi ripeto, poi tutti si lamentano che la politica non controlla e non interviene. Lei rivendica una cosa che è indifendibile. Parenzo, vuoi dire qualcosa? Voglio dire a Miccoli, aspetti. Ritengo indifendibile il far finta di niente di fronte a bisogni del genere. Un attimo, Miccoli, sentiamo Parenzo. La questione del calcio è vero che interessa milioni di italiani, ma oggi gli occhi di tutti noi erano puntati su un altro problemino. Le persone stanno pensando alla fine mese, alla tassazione, al maledetto cuneo fiscale. Perché tirano fuori il calcio oggi? Non ha senso, amico mio. Poi soprattutto con una cosa al Presidente del Consiglio, che non è che si può occupare. Il Presidente del Consiglio, poverino. Miccoli, come le ha risposto? Qualcuno le ha risposto dell'entourage di Renzi? Non è un tema di risposta. Il tema è essere consapevoli che c'è un problema. Ma quale problema, Miccoli? Ma quale problema? Il favoritismo nei confronti della Juventus? Dai, su, Miccoli. Poi quando scoppiano gli scandali dite che la politica non controlla i settori. Ma chi l'ha detto? Ma io non lo dico. Il giornalismo normalmente. Vabbè, comunque lei rivendica questa cosa, Miccoli. Io l'abbraccio fortissimo. Meno male che non si è tirato indietro. L'abbraccio io a voi. Presto, arrivederci. Non mi mordere il dito. Vabbè ragazzi, ma come si fa? Dai, su, rivendica questa roba qua. Chiama un attimo Varin. No, chiamo un altro io. Adesso chiamo un altro subito a ruota. Mi sono esaltato. Devo dire una cosa, a ruota voglio chiamare un altro. Varin. No, ma che Varin? Che c'entra Varin? Dai, dire una cosina, Varin. Ma vabbè, ma gliela dici in privato adesso, oggi no? No, ma che gli vuoi dire al conduttore di Radio Padania? Scusa, non ho voglio capito. Voglio dire una cosa al signor Varin. Devo parlare con Varin. Sai come fa Lucia alle volte? Devo dirgli una cosa a Varin. Aspetta che c'è un'altra telefonata qui in canna su questo argomento della Roma, eccetera. Puoi immaginare a chi? No, che cancellieri? La Roma. Vabbè, intanto Luciano da Lucca. Buonasera. Vai. Pronto? Vai. Sì. Dunque, no, volevo fare dare un consiglio amichevole a Parenzo, posso? Riguardo a quello che ha detto poc'anzi quando parlava il dottor Morelli, no? Per favore, di non rivolgersi sempre quando si parla di Grillo, dei grillini, sempre con quell'aria di sufficienza, con la puzzetta sotto il naso, la sinistrosi, come lui, la faccia finita, non è Jack lo squartatore Grillo. Grillo sarà quello che sarà. Io mi permetto di commentare le cose che dice Grillo in ogni squartatore. Ma non lasci parlare. Modo come ne viene parlato sembra che c'è Jack lo squartatore e Grillini l'armata Banca Leone. È questo che volevo dire, questo e basta. Parenzo. No, io parlo di Beppe Grillo e uso l'ironia, il sarcasmo, tutti strumenti che un comico come lui dovrebbe conoscere, quindi è l'ultimo che si deve offendere, quindi usa esattamente il suo stesso registro, l'invettiva, il sarcasmo, l'ironia, il dileggio. Ma non è ironia, Parenzo, quello che usa lei. Gli strumenti del comico prestato alla politica e che ha detto vai tu per l'Italia. È pregiudizio. Quello ha preso 9 milioni di voti. Ma che c'entra? Cosa c'entra? Uno può dire anche cazzate pur prendendo 9 milioni di voti. Che c'entra? Io non dico che le dice sempre. Sì, d'accordo. No, per carità, non è questo che voglio dire. Però dico, è tutte le volte questa storia. Io seguo la Zanzara e tutte le sere questa mia nata qui. Penso che ha sempre quell'aria nei confronti dei grillini di sufficienza. Insomma, Gabriele, provincia di Parma. Gabriele, provincia di Parma. Sì, pronto? Sì? Sì, salve. Niente, io volevo dire una cosa, che ieri ero a lavorare, sono un commerciante, un artigiano, ero a lavorare vicino al confine Ventimiglia. Allora? E ho conosciuto un francese, un mio cliente, me lo sono fermato acquistato, e parlando questo francese si era trasferito ad Alassio perché in Francia vige il 75% di tassazione, no? Allora sì, su redditi molto alti, detto, su redditi alti, sì. Gli ho detto... Sì, sì, allora, ma una vergogna la Francia, amico, ho detto che è il paradiso la Francia, cioè. Sì, no, no, però infatti noi che lavoriamo, io sono un artigiano, faccio l'ambulanza, sono un cioccolatiere, pago il 65% di tasse in Italia. Perché Renzi non parla di questo? Perché non parla di quello che si è ammazzato per 2000 euro di ispettorato del lavoro? Io non posso portare mia compagna a farmi dare una mano la domenica perché fanno altro lavoro, perché devo metterla in regola, cioè, cioè questo bisogna parlare, non solamente di tante promesse, allora... tante cazzate. E allora è il caso che questi qui si dia una mossa, che facciano una bella riforma elettorale. Va bene, Gabriele, Antonio da Bologna, non faccia il politico pure lei però, Antonio da Bologna, è il caso che si dia una mossa, che faccia una riforma elettorale, eccetera, eccetera. Antonio da Bologna. Io odio ormai i discorsi generici, cioè li odio, non li sopporto. Antonio da Bologna. Oh, che bello. Allora il bel Cruciani e il gigante Parenzo, buonasera. Sì, ma i complimenti non ci piacciono a noi, su. Un piccolo consiglio per cercare di recuperare qualche radioascoltatore. La sera, perché non provate a rinvitare gente come Razzi, Fede, Taormina, ma tutte le sere? Razzi è qualcosa di spettacolare, di sconvolgente. Che vogliamo fare? È così. Razzi, se non ci non fosse, bisognerebbe inventarlo. Beh, adesso. Sì, ma Razzi non è senatore per caso. Voi vi dovete far dare delle magliette autografate. Saranno dei pezzi che andranno a ruba. E poi si può chiedere a Razzi. Che devo chiedere a Razzi? Come si può fare per chiedere una concessione allo Stato, al governo, non so a chi, per, che cosa? Per aprire un forno nella Cappella Sistina? visto che c'è il camino e c'è il forno, ma chi può venire in mente una tipa del genere? Solo a Razzi. Mia madre, 83 anni, Ivan, mi ha detto: corri, accendi la radio. Ho acceso la radio, erano le 6:30 e Razzi stava parlando della Cappella Sistina, delle magliette, eccetera eccetera. A parte gli scherzi, e per non parlare di cose serie, gente come Razzi, sì, provate a farli venire a intervistarle tutte le... Ma lei ma vuole collegarsi meglio con sto telefono? Chiedo, vabbè, Antonio, addio. Gente mi accusa di aver esaltato il pezzo sessista di Affari Italiani. Allora, te l'ho detto. Ma sì, ma dite quello che volete. Si può fare ironia sul culo della Boschi? Vedi, sì, che non sono l'unico a dire che è una porcheria. Vabbè, ma tu sei politicamente corretto in ma persona. Ma non è politicamente corretto, è una persona, è il buon gusto. Ma non c'entra niente il buon gusto. A parte che io non ho buon gusto, per cui me ne fotto del buon gusto. Ah, ecco, no, ma questo ma è a parte questo, primo. Secondo, non riesco a capire qual è il problema. Ma se uno io, fa francamente... se uno fa battute, ironie sul di dietro di una persona, che è un personaggio pubblico. Ogni personaggio pubblico è squadrato da cima a piedi. Ma sì, ma non per quello. Ma chi l'ha detto? Ma che ne sai? Vestiti, ma tutti? Magari, ma quando mai? È come se a te dicessero: guarda che brutti capelli appiccicati. Beh, perché non me lo dicono? Perché non me lo dicono ogni tanto? Ma non me lo dicono. È stupido, non c'è nessun attacco. Non è che uno dice che è schifo quel culo della Boschi. Si fanno ironie e battute anche sul culo della Boschi. Si può ritrovare un po' di gusto. Vabbè, Parenzo, senti, abbi pazienza. Vai a Radio Maria, vai a Radio Pinco Pallo, vai a Radio Popolare. Parenzo, ma nessuno. Tiri fuori i coglioni, esatto, o vai da Barisoni. Bravo. Povero Barisoni. Luciano da Milano. Pronto, buongiorno. Una sola osservazione a proposito di buon gusto. Sì. Temo che la sua affermazione Razzi è meglio di Piano identifichi il suo spessore culturale. Può darsi, infatti, l'ignoranza. È simile a quello di Gasparri. Bravo, sì, sì. E allora qual è il problema? Qual è il problema? Non ho capito. Ecco un altro imbecille. Ivano dalla provincia di Trento. Luciani. Dimmi. Ciao, ascolta, lascia stare Parenzo, che tanto a quello gli piacciono i gay, dai, non può piacere nessuno della Boschi, no? Ecco, io ti voglio dire una cosa. Tu prima hai parlato della patrimoniale, che se saresti favorevole. Devi un po' stare attento come parli, perché sei pagato dalla Confindustria. Beh, me ne fotto, qual è il problema? Non ho capito. Si chiama lì il Morelli. Potresti dirgli se ti licenzia, no? Così magari poi... Ma guardi, non corro questo pericolo, almeno per quello che riguarda la questione della patrimoniale. Io no, sono... beh, ma dovresti essere un po' licenziato. Oggi si licenzia anche per molto meno, sai, caro Cruciari. Accomodati, fai una proposta, scrivi. Ecco, sì, caro Morelli, licenziate quel falso comunista di Cruciani e l'amico di Culattoni lì. Guarda, a me comunista non me lo dici perché mi offendo, capito? No, ma io... Perché invece te lo dico comunista, falso no, comunista. Mi offendo se mi dici comunista, no, capito? No, sei falso comunista perché quando dici che vuoi mettere la patrimoniale... Io non ho detto questo, stai no, delirando. Prima hai detto che sei io contrario detto, alla tassazione dei bond. Io ho detto che a certe condizioni un'imposta, dipende di che tipo, su grandi patrimoni, su chi possiede grandissimi patrimoni, cioè su chi ha 10 milioni di euro in banca, 8, 7 milioni di euro in banca e immobili, eccetera, eccetera, se questi qua danno un piccolo contributo, non è negativo, ma... Voglio dire, ma io sono contrario, poi io sono a favore della riduzione delle tasse e della diminuzione della spesa pubblica, perché questa è la base. Pietro da Milano. Ciao. Dimmi. Senti, volevo dirti solo una cosa riguardo a Paolo Barber di venerdì. Secondo me in sei mesi, io sei mesi che ti ascolto, sono un tassista di Milano. Sì. È stato il primo intervento davvero serio di informazione italiana. Ma qui non è questione di intervento serio di informazione, che c'entra l'informazione, dai? No, perché dai, no, vabbè, a te è piaciuto l'intervento di Barnard, bene, ma lo riproporremo, Pietro, no, non ti preoccupare. Il tuo amico Parenzo, dato che gli è andato addosso, prima si dovrebbe prima di tutto informare di quello che dice Paolo Barnard. Vabbè, ma non è che sia la Bibbia, Barnard, ci sentiamo domani 18:30, ciao. Te lo dico da amico, fatti i cazzi tuoi. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Gli amici della zanzara di solito sono sempre molto seri. Radio 24. La passione si sente.